Amen. Vogliamo ringraziare il gruppo Lode che ci ha guidato in un tempo bellissimo di adorazione. Quanto siamo ricchi e che bello avere i bambini. Chi è padre, chi è madre? Posso vedere la tua mano? Mamma mia, oh, sono l'unico a non essere papà. Avete dei figli fantastici, siamo ricchi come chiesa perché abbiamo questi bambini che amano il Signore. Dicevo dietro a Michele che è veramente bellissimo vedere la fede di un bambino. E si spiega tutto, quando senti parlare di Gesù un bambino, quando senti parlare un bambino di Gesù, ti rendi conto perché Gesù dice che dobbiamo imitarli e perché dice che dobbiamo essere come loro. Tutto si spiega perché loro sono genuini, concreti, reali e noi quella fede dobbiamo avere. Ed è bellissimo essere in chiesa, avere tutta una settimana alle spalle, perché credo che ognuno di noi ha la sua settimana più o meno facile, più o meno difficile, e poi venire qua e cantare che del suo amore, che il suo amore sorpassa ogni cosa, che il suo amore è meraviglioso. E sapete, io voglio ricordarvi questo, che quello che la religione dice è sbagliato, che noi non dobbiamo meritarci l'amore di Dio, che noi non dobbiamo conquistarcelo con le nostre opere, che non dobbiamo fare degli sforzi per essere più o meno amati da Dio. Dio ci ama già di suo incondizionatamente perché Lui è l'amore in persona. Quindi è bellissimo ritrovarci qui questa mattina e sapere che a prescindere da tutto quello che abbiamo vissuto in questa settimana, successi o fallimenti, a prescindere dai nostri bagagli di sentimenti positivi o estremamente negativi, da quelli che sono i nostri pensieri, il nostro sentirci più o meno puri, questa mattina possiamo essere alla presenza di Dio e sapere che abbiamo il diritto e la gioia di poter godere del suo amore, non per i meriti nostri, ma per la grazia in Cristo Gesù. Tu sei amato questa mattina, io sono amato questa mattina. Puoi dirlo, puoi ricordarlo al tuo fratello, alla tua sorella, diglielo, sei amato a prescindere, a prescindere. E noi amiamo vivere e fare chiesa secondo quello che è il modello della parola di Dio, quello che Gesù istruisce, quello che Gesù insegna sulla chiesa. E la chiesa, secondo quello che la parola di Dio ci insegna, non è un rituale liturgico che si ripete ogni domenica. Non è un rituale liturgico che si ripete ogni domenica. Vivere e fare chiesa significa vivere delle relazioni dove intenzionalmente mettiamo Cristo Gesù al centro. Amen? E questo non accade solo per un'ora e mezza la domenica mattina o la domenica sera, ma è qualcosa che noi viviamo durante tutto l'arco della settimana. E la settimana che ci sta davanti è una settimana speciale e importante perché abbiamo la possibilità di partecipare agli incontri nei gruppi familiari. E nei gruppi familiari che facciamo? Viviamo delle relazioni nelle quali intenzionalmente mettiamo Cristo Gesù al centro. Lo mettiamo al centro nel nostro pregare l'uno per l'altro, lo mettiamo al centro nell'edificarci l'uno nei confronti dell'altro, lo mettiamo al centro nel servire l'un l'altro, lo mettiamo al centro nell'evangelizzare, nel portare la luce ad altri e quindi invitare persone nei gruppi. Se ancora non fai parte di un gruppo, devi far parte di un gruppo, perché essere chiesa significa vivere Cristo Gesù nelle nostre relazioni e non partecipare a un culto semplicemente la domenica mattina, ma vivere una settimana con fratelli e sorelle che sono lì per la stessa intenzione di mettere Cristo Gesù al centro. Io vorrei che ci alzassimo in piedi e vorrei vedere le mani di quanti in mezzo a noi sono responsabili di un gruppo familiare. Posso vedere la tua mano, tienila ben alta, e le persone che sono vicine a queste persone con le mani alzate, potete stendere la vostra mano su di loro e vogliamo pregare insieme per ogni gruppo e capogruppo che è presente qui in mezzo a noi. Vogliamo benedire queste persone, benedire il loro servizio, quello che andranno a fare in questa settimana. Alziamo insieme la voce. Forza Chiesa. Padre, ti ringraziamo per queste persone, ti ringraziamo per questa settimana, per quello che tu affidi a questi tuoi servi, a questi tuoi fedeli servitori. Io ti prego di ungerli e di potenziarli mediante la potenza dello Spirito Santo, e ti prego che questa settimana tu possa guidare dei gruppi che vanno a un livello successivo di gloria, un livello successivo di dipendenza a te, un livello successivo di appartenenza a te. Grazie Gesù perché tu ami queste persone, ti vuoi servire di loro e noi le benediciamo nel tuo santo nome. Ti preghiamo per una settimana ricca e benedetta in ognuno dei gruppi della nostra Chiesa. Grazie Padre perché sono decine e decine questi gruppi e noi li benediciamo uno ad uno. Grazie Padre. Padre, grazie perché sei nella vita della Chiesa. E grazie Padre perché sei qui con noi questa mattina e sarai durante l'arco di questa settimana con ciascuno di noi e in modo particolare negli incontri che avremo in casa attraverso i gruppi familiari. Noi Padre, come abbiamo appena fatto, benediciamo ogni tuo servitore che si è messo lì in prima linea a tuo servizio per guidare questi gruppi. Preghiamo che ciascuna di queste persone possa portare questi gruppi a un livello successivo, a un livello di dedicazione e consacrazione a te migliore, che loro possano crescere in te e portare a crescita il gruppo che tu hai affidato a loro. E noi preghiamo, Padre, di una moltiplicazione per i gruppi familiari, sempre più guide di gruppi, sempre più gruppi in ogni parte di questa città e della provincia e della regione. E noi preghiamo che attraverso queste riunioni il tuo Vangelo possa entrare nelle case e possa portare ancora più salvezza, ancora più liberazione, ancora più miracoli nella vita di tante altre persone. Grazie Gesù, a te la gloria e l'onore. Amen. Amen. Ci possiamo accomodare. Voglio ricordare a tutti i capogruppi che anche questa mattina è pronto per voi il documento che è di guida per la conduzione del gruppo. Non vuole essere un'imposizione per farvi guidare il gruppo come diciamo noi, potete sempre guidare il gruppo come volete, ma è un'indicazione, un modo per agevolare il vostro compito in questa settimana, avere il riassunto del messaggio che ascolteremo oggi, i versetti, alcune domande, alcuni punti di preghiera che possiamo insieme considerare negli incontri che abbiamo infrasettimanali. Che bello essere qui! È vero? Io mi prendo un sorso d'acqua, visto che c'è, e grazie Gianluca per avermelo portato. A quanti di noi è mai stato affidato qualcosa, qualcosa di importante, e poi quel qualcosa in una qualche maniera vi è sfuggita di mano, vi è sfuggita di controllo? A me mai, perché io sono una persona che quando mi viene affidato qualcosa sono scrupoloso, ho molta attenzione, soprattutto se si tratta di qualcosa che non mi appartiene. Però ho un paio di fratelli in casa che sono un po' diversi da me. Ora, stamattina non farò nomi proprio per cercare di mantenere un anonimato, però i fratelli due sono, quindi a voi lascio le conclusioni. E ricordo quando uno di questi due fratelli ebbe in regalo una bicicletta da corsa, bella, nuova, messa a puntino da mio padre. E regalata la bicicletta, l'altro mio fratello volette a tutti i costi provarla, no? E cominciò a insistere. Questo mio primo fratello, a cui era stata regalata la bicicletta, non aveva ancora fatto un giro su questa bici da corsa, ma l'altro mio fratello era così caparbio e così desideroso di fare un giro con questa bicicletta che insistette talmente tanto che il primo a fare il giro sulla bicicletta da corsa nuova e messa a lucido da mio padre fu quest'altro fratello. E quindi prese la bicicletta e passarono i primi 10 minuti. I secondi 10 minuti, passò la mezz'oretta, passarono 3/4 d'ora e di questo fratello non sapemmo più niente. Al che l'altro mio fratello si cominciò a preoccupare, a dire sicuramente è successo qualcosa. E mio padre che lì era a tranquillizzare, no, non è successo niente, tranquillo, sta per tornare. Il bello è che lui tornò, quest'altro mio fratello. Tornò con un muso completamente gonfio, un labbro che era spaccato e un dente rotto. E la bicicletta non si vedeva più. Quindi arrivò lui e dopo qualche altro tempo arrivò anche la bicicletta. Ora, la bicicletta era più ammaccata dell'altro mio fratello. La forcella era completamente rientrata a tal punto che le due ruote erano quasi parallele tra di loro. E potete immaginare il rammarico del primo fratello rispetto al secondo fratello. Il secondo fratello era entusiasta di aver fatto il suo giro in bicicletta e l'aveva fatto molto bene, perché era andato talmente veloce ed era così concentrato sulle pedalate che stava dando che il suo capo era chino, era abbassato, si sentiva un ciclista e non ha visto una macchina parcheggiata che ha preso in pieno, ha fatto un volo, si è spaccato di muso e ha distrutto la bicicletta. Vi è mai capitato che qualcuno ti affida qualcosa e questa cosa va rovinosamente male? Gesù racconta una storia, racconta una parabola che è molto simile a tutto questo e racconta di tre uomini, tre servi a cui vengono affidati dei beni. Vogliamo leggerla insieme? Si tratta della parabola dei talenti, credo che la maggior parte di noi conosce questa parabola e si trova in Matteo e anche nel Vangelo di Luca. E in Matteo al capitolo 9 leggiamo queste parole. Sono le parole che Gesù trasmette ai suoi discepoli e alle persone che lo stanno ascoltando. Leggiamo insieme. Poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Subito, colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo, quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti dicendo: «Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ho guadagnato altri 5 talenti. Il suo padrone gli disse: «Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore». Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: «Signore, tu mi affidasti 2 talenti. Ecco, ho guadagnato altri 2 talenti. Il suo padrone gli disse: «Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore». Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto 1 talento solo e disse: «Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo». Il suo padrone gli rispose: «Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori, lì ci sarà pianto e stridor di denti». Questa è una delle parabole che Gesù racconta in una serie di racconti, in una serie di parabole che sta raccontando, che hanno un aspetto in comune, che è il giudizio eterno ed è la fine dei tempi. E quello che è il senso di questa parabola è molto semplice, che ci è stato affidato qualcosa e in base a quel qualcosa che ci è stato affidato noi avremo un giudizio. È un giudizio che avrà un peso e una ripercussione eterna. Ora, il desiderio di Gesù, per chi si ricorda anche 2 domeniche fa abbiamo parlato di questo, è che noi possiamo essere nell'abbondanza. Gesù vuole che noi portiamo frutto, vuole che noi abbiamo una vita da 100 per 1. Vi ricordate? Vi ricordate i terreni che Gesù presenta nella parabola del seminatore, no? E dei vari terreni lui vuole che noi ci ritroviamo in quel terreno fertile, in quel terreno il cui seme prende radici e che porta frutto, tanto da portare un frutto miracoloso, abbondante, il 100 per 1. E io voglio ricordarti questa mattina che quello che il Signore desidera per me e per te è che noi viviamo una vita fruttuosa, una vita abbondante, una vita dove tutto quello che noi facciamo porta un peso e una ripercussione gloriosa per l'eternità. Questo è quello che Lui vuole per te. La scorsa volta abbiamo visto che è importante che non abbiamo un cuore duro. e che la parola non rimane in superficie, perché sennò il maligno la porta via, e che Dio vuole anche che noi mettiamo radici e che la parola che ascoltiamo non sia solo qualcosa che noi ascoltiamo distrattamente, ma che affondi e metta fondamenta in modo tale che con il sole o con le temperie, intemperie, con la tempesta, la nostra vita rimanga salda. Vi ricordate questi aspetti, no? E poi in terza analisi, quel terzo scenario, Dio non vuole che noi soffochiamo dalle radici. E abbiamo analizzato l'importanza di come gestiamo anche i nostri averi, proprio i nostri soldi, perché Gesù dice che le radici, le spine, sono appunto le ricchezze vane, i piaceri della vita. E noi possiamo esserne soffocati e non portare frutto. Invece Gesù vuole che noi non siamo lì soffocati, dominati dalle ricchezze, ma che noi dominiamo le ricchezze. Abbiamo visto tre aspetti per come dominare le ricchezze. Il primo è investirle nella maniera saggia, dare la decima. Il secondo era risparmiare ogni mese, mettere qualcosa da parte. E il terzo aspetto era ridimensionare la nostra vita in base a quanto ci rimane, facendo una giusta analisi delle ricchezze che abbiamo a nostra disposizione, perché Dio ci chiama a dominare e non ad essere dominati. Se non avete ascoltato questo messaggio, perché vedo qualche faccia perplessa, era un riassunto molto breve, potete andarla a vedere. Oramai tutti i nostri messaggi si trovano su YouTube, quindi basta che vai su YouTube e puoi ascoltare questo messaggio. Però andiamo a questa parabola. A me piacciono le parabole perché rendono in maniera molto chiara quello che il Signore vuole trasmetterci. E in fondo nelle parabole di solito il messaggio è sempre uno o un paio, non c'è troppo da scavare, non c'è troppo da fare allusioni su quello che Gesù voleva più o meno dire. Quello che Gesù voleva dire è semplicemente che hai la possibilità in questa vita di essere arricchito attraverso i beni che lui ti affida, oppure rimanere nella povertà pur avendo dei beni che lui ti affida. E questo andremo a vedere insieme. Una cosa importante che noi comprendiamo attraverso questa parabola è che lui è il donatore. Questa è la prima verità che viene fuori attraverso questa parabola, e non solo. Quindi mi sento libero di poter dire che questa non è solo una verità che scopriamo dalla parabola stessa, ma tutta la parola di Dio, tutta la Bibbia ci dice che è Lui il donatore, è Lui il creatore, è Lui che ci dona vita, è Lui che ci dona tutto quello che abbiamo. Noi siamo beneficiari del suo dono, di qualsiasi dono. Basta prendere l'Evangelo di Giovanni e sfogliarlo dal primo capitolo e renderci conto di quanto l'intenzione di Dio è di arricchirci, di donarci. Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12, dice: ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A volte erroneamente diciamo siamo noi che abbiamo dato la vita a Dio, siamo noi che abbiamo dato il nostro cuore a Gesù. Niente di più sbagliato, tu hai ricevuto e Dio ti ha dato il diritto di diventare figlio di Dio. Se vai avanti nel Vangelo di Giovanni, basta andare al capitolo 3 per trovare un verso che conosciamo tutti a memoria, che dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio viene per arricchirci. Se poi andiamo avanti, che so, possiamo arrivare al capitolo 10, dove c'è quel famoso verso che dice che io, Gesù, è Gesù che parla, io sono venuto perché abbiate vita e l'abbiate in abbondanza, no? Che buono che è Dio, lui viene per darci e darci vita in abbondanza. Giovanni capitolo 14 leggiamo che io pregherò il Padre, è Gesù che parla, ed egli vi darà un altro consolatore, che è il dono dello Spirito Santo. Nello stesso capitolo dice: io vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà. il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Queste sono le promesse di Dio per ciascuno di noi e possiamo andare avanti non solo nel Vangelo di Giovanni, ma in tutta la parola noi ci rendiamo conto che Dio non vuole derubarci di niente, ma Lui è colui che viene per donarci, è Lui il donatore e noi siamo i beneficiari del dono. Ed è importante comprendere questa verità, perché a volte pensiamo che Dio viene per elemosinare la nostra vita, che Gesù viene per elemosinare il nostro servizio, per elemosinare il nostro dono, i nostri soldi, per elemosinare il nostro tempo. Niente di più sbagliato. Dio non vuole toglierti niente. Dio vuole arricchirti. E se c'è qualcosa che Lui vuole togliere, è la parte più brutta di te. Fagliela togliere, è la cosa più bella che ti può succedere. Fatti togliere da Dio quello che Lui ti vuole togliere, perché è solo la parte più brutta di te. Fatti dare quello che Lui vuole darti e arricchisciti dei doni che Dio ha per te. Lui ti ha arricchito, questa è la verità. E Lui ti arricchisce di doni meravigliosi. Che cosa vuole darti? Beh, attraverso questa parabola noi comprendiamo che Lui vuole darti il privilegio di vivere una vita significativa. Quando Gesù parla dei talenti, non sta parlando della bella voce che ti ha dato per poter cantare. Anche. Però quello che Gesù sta raccontando è una storia che ha a che fare con molti soldi. In realtà i talenti, noi oggi chiamiamo talento, un dono innato che abbiamo. Ma in realtà quello che Gesù, ed è una parola che attinge proprio da questa parabola, cioè da questa parabola che noi chiamiamo i talenti, ma il talento all'epoca di Gesù erano soldi, erano molti soldi. Un talento era l'equivalente di circa 10 o 20 anni di lavoro. Un talento. Quindi quello che Gesù sta dicendo e quello che sta raccontando e agli occhi delle persone che lo stanno ascoltando all'epoca ha molto molto senso, è che questo padrone, questo capo, viene per dare ai suoi servi un bene prezioso, un bene abbondante. Anche alla persona a cui ha dato il minimo, ha dato davvero davvero tanto. Ora provate a immaginare che qualcuno viene da te e ti dona 60, 80, 100.000 euro. Qualcuno si stanno brillando gli occhi, no? Beh, questo è quello che Gesù stava raccontando. E credo che chi ascoltava la parabola all'epoca gli brillavano gli occhi a sentire, no, di questo padrone così, così generoso. Questo è il nostro Dio. E Lui viene a darti qualcosa che ha il potenziale di cambiare la tua vita. Perché questo è un talento, questo è quello che un talento fa. Al potenziale di cambiarti la storia della vita. E c'è un pastore che dice che la più grande tragedia che può succedere su questa terra a un uomo non è la morte, non è la sua morte, ma vivere una vita sprecata e senza significato. Questo lo dice il pastore Rick Warren, che ha scritto anche un libro che si chiama proprio Vita con uno scopo. Tu hai uno scopo nella vita e quando Dio parla di affidarti dei beni, ti sta parlando di un arricchimento che determina il tuo destino di vita. Noi leggiamo in 1 Timoteo capitolo 1 dal versetto 9, lo possiamo leggere insieme, che Egli ci ha salvati e questo è glorioso, questo è meraviglioso. Tu sei salvato per l'eternità, per la grazia di Cristo Gesù. Non sono le tue opere, non sono i tuoi meriti che ti salvano, ma è Cristo Gesù che ha pagato il prezzo di ogni tuo peccato, passato, presente e futuro. Ma non solo, quanto è bello leggere questo verso in 1 Timoteo, capitolo 1, dal versetto 9, che dice Egli ci ha salvati, ma non solo, ci ha rivolto anche una santa chiamata. non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. C'è un altro verso che dice che noi siamo destinati a delle opere che lui ha precedentemente preparato affinché noi le compiamo. Questi sono i tesori che Dio ha dato a noi, la possibilità di vivere una vita straordinaria, non ordinaria, perché non solo siamo salvati, ma siamo chiamati a un destino completamente diverso di vita. Cosa fai tu del tuo destino? È bellissimo che proprio prima di questo incontro abbiamo pregato su e c'era Leo che ha pregato e non sapeva niente di questo messaggio, ma credo che c'è stata proprio una guida profetica da parte dello Spirito Santo, perché lui nella preghiera proprio diceva: grazie Signore, perché non viviamo una... me lo sono scritto, me lo sono segnato, non viviamo in attesa di morire. Ma grazie perché viviamo per uno scopo, per una ragione. Questo è ciò che ci deve entusiasmare più di ogni altra cosa, fratelli e sorelle. Amici, la notizia più bella che puoi apprendere questa mattina è che tu non vivi per sopravvivere, che tu non vivi in attesa di morire, tu vivi per uno scopo, tu vivi per una santa chiamata, tu vivi per opere precedentemente preparate affinché tu le compi, e nel momento in cui comprendi il valore e il bene e i doni preziosi che Dio ti fa e cominci a vivere per essi, allora tu cominci a beneficiare di una vita trasformata che ha una ripercussione eterna. Nel momento in cui tu ti ritroverai davanti a Dio, lui ti dirà: fedele, buon servitore, entra nella gioia del Signore. Questo è quello che lui ci sta chiamando a vivere. Quindi la prima verità è: scopri il fatto che Dio è un donatore e tu sei beneficiario di doni meravigliosi. La seconda verità è che tu sei l'amministratore di questi doni. Tu amministri quelli che sono i doni che Dio ti affida. Il senso della parabola è proprio questo, che puoi vivere una vita ricca, investita, fruttuosa, che moltiplica quello che il Signore ti ha affidato, oppure puoi vivere una vita che è ordinaria, una vita che è infruttuosa. Sapete come ho intitolato questo messaggio? L'ho intitolato Povero eppure ricco. Quest'uomo, questo servo, ha vissuto una vita da povero pur avendo un'enorme ricchezza. Ha vissuto da povero pur avendo un talento, pur avendo dei beni che gli erano stati affidati. Che cosa ne ha fatto? Ha scavato una fossa e li ha messi lì. Come se qualcuno ti desse 100.000 euro, tu li prendi, li depositi in una cassaforte in casa tua e vivi come se non avessi niente. Quante persone vivono effettivamente in uno stato del genere? Quante persone sono effettivamente ricche, parlo di beni anche proprio materiali, eppure vivono una vita povera? E a volte questo è quello che noi viviamo come credenti. Siamo arricchiti di ogni dono, di ogni benedizione, di ogni cosa che Lui ci affida. Abbiamo letto del Consolatore, noi siamo benedetti dalla potenza dello Spirito Santo, noi siamo privilegiati dal fatto che domani mattina ci possiamo alzare e possiamo chiedere: Spirito Santo, cosa vuoi che io faccia in questo giorno? E cominciare a vivere una vita straordinaria, non determinata dalle circostanze e dalla routine, ma determinata da quel piano divino che Dio ha per te. Che cosa stai facendo del dono dello Spirito Santo nella tua vita? Che cosa ne sto facendo io del dono dello Spirito Santo nella mia vita? La verità è che possiamo vivere una vita ricca, possiamo vivere una vita abbondante, e io sono gioioso di poter dire oggi, e credo che la maggior parte di noi con me possiamo dire: è bellissimo vivere con Gesù, perché Lui ci arricchisce. Non ha niente di ordinario la vita che vivo, non ha niente di simile alle persone che stanno attorno, ma sono grato a Dio. Sapete qual è la tragedia più grossa dei cristiani? È che cercano di conciliare, vivere un ibrido tra quelli che sono i doni che Dio ci offre e quello che è l'ordinario che si vede attorno a noi. Vogliamo Dio, vogliamo la sua parola, veniamo in chiesa la domenica, ma poi vogliamo anche ciò che è ordinario, il solito lavoro, la casa, il mutuo, la macchina nuova, l'abbonamento TV, e tutto quello che luccica, tutto quello che brilla, ma che non ti permette di avere frutto e di vivere quella vita straordinaria che Lui ha per te. Cancella tutto, rimetti tutto in discussione e chiediti che cosa significa essere veramente cristiano e discepolo di Cristo, perché forse ti sta sfuggendo quella che è una vita benedetta e ricca che Dio vuole darti, che è fatta di passi straordinari, di fede, rischiosi, ma che ti fanno vivere veramente. Io vivo veramente. La mia gioia più grande è stendermi la sera a letto e dire: Signore, grazie perché la mia vita non ha senso, è tutta strana, è tutta indefinibile, però io sono grato perché in questo giorno ho potuto fare cose che so che hanno una ripercussione eterna. So che ho fatto delle cose oggi, predicando il tuo Vangelo, parlando, evangelizzando, incoraggiando credenti, avendo appuntamenti, ed è tutto così glorioso perché so che questo vale più di 1000 stipendi, 1000 case, 1000 macchine, 1000 cose che luccicano ma non danno vero scopo e senso alla vita. Che bello afferrare la vita che Dio ci dà. Che bello vivere il miracolo di dedicarsi a Lui. Che bello vedere dalla nostra chiesa persone che colgono questa realtà al punto tale. Rosanna è una di queste. Al punto tale da dire: io rinuncio a tutto ciò che è ordinario. Prendo la mia valigia e parto. Vado in un posto che tutta la società attorno a me non vorrebbe andarci. Dove c'è povertà, dove c'è miseria, dove ci sono cose che non funzionano, dove non c'è ordine, dove c'è una società che vive nella confusione, e vado lì per portare la luce che ha cambiato la mia vita. Marta è quello che sta facendo, tu, io, è quello che possiamo fare ogni giorno, nel nostro posto di lavoro, nella nostra scuola. Questa è la vera vita, vivi la vera vita. Questo è quello che Gesù ti sta dicendo attraverso questa parabola, vivi la vera vita. Non inseguire il nulla, non vivere per il nulla, vivi la vera vita. L'Apostolo Paolo a Timoteo proprio incoraggia due volte nella stessa lettera con queste parole. Lo incoraggia dicendo: non trascurare il dono che è in te e che ti fu affidato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani. Non trascurare il dono che è in te e che ti fu dato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani. Io ho convinzione che lo Spirito Santo parla in mezzo a noi e che nella storia della tua vita, dalla tua conversione, tu hai ascoltato almeno una, se non più di una, parola profetica che ti è stata affidata e ha delineato una strada davanti a te. Non un percorso chiaro, netto, tutto che quadra, ogni singolo passo che devi fare, ma dei traguardi, dei punti di arrivo temporanei che poi ti porteranno ad altri traguardi. Qual è la parola profetica che ti è stata affidata? La stai ricercando? La stai investendo in essa più di qualsiasi altra cosa? O hai scavato una buca e hai messo quella parola profetica nel sottoterra? Come? La domanda è proprio questa. Come rischiamo di sprecare la nostra vita? Come rischiamo di perdere quel talento e di non farlo fruttare? Come possiamo finire per vivere una vita vuota e patetica, ricorrendo al niente ed essendo distratto da tutto ciò che è niente? Come accade questo? In realtà è molto più semplice di quanto noi crediamo. Veniamo presi dall'ordinario. Siamo distratti, viviamo in una società che ci distrae. Abbiamo un nemico il cui intento costante è distrarci. Distrarci attraverso tutto e attraverso tutti. ci distrae attraverso il cellulare che abbiamo in tasca, ci distrae attraverso la televisione a casa, ci distrae attraverso... E io non sto demonizzando queste cose, possono essere pure qualcosa di molto sano, ma se sei tu che domini su queste cose e non loro su di te, ci distrae con tanti pensieri, con tanti sentimenti, con tante congetture, con tanti problemi che ci facciamo che non hanno nessun valore biblico e che deriva dalla parola di Dio. Cosa sta prendendo la tua attenzione giornaliera? È il destino tuo di vita, i doni che Dio ti ha dato o tutto il resto? La distrazione è un furto. Non accettare la distrazione nella tua vita. Sii focalizzato. Gesù era molto focalizzato e se noi vogliamo prendere una vita d'esempio, prendiamo la vita di Gesù. Gesù ha vissuto una vita con un destino, con uno scopo e non c'è stato un singolo giorno nel quale lui ha mancato quell'obiettivo, nel quale lui non ha investito quei talenti che gli erano stati affidati. Ogni cosa che ha fatta l'ha fatta seguendo il Padre, avendo istruzioni chiare dal Padre e poi ha finito la sua vita su quella croce dicendo tutto è compiuto, tutto è compiuto. E c'è un valore enorme per questa affermazione che lui ha dato. Non andremo a scavare tutto il significato di questa affermazione, ma sicuramente una parte di questa affermazione sta proprio nel destino di vita che lui ha vissuto appieno. Possiamo abbassare un po' la musica, grazie. Tutto è compiuto. E io mi chiedo, alla fine dei miei giorni, potrò dire tutto è compiuto? Potrò dire come Gesù ha detto, ho fatto tutto quello che il mio Signore mi ha affidato e mi ha chiesto di fare? Tutto è compiuto. Questo è il tipo di vita che Lui vuole per te. Gesù era sofferente su quella croce. Gesù era in difficoltà, sicuramente. Ma quando ha affermato questa frase, io sono convinto che lui era pienamente appagato e soddisfatto. Pienamente appagato e soddisfatto per ogni traguardo raggiunto. Pienamente appagato e soddisfatto per ogni bene che ha fatto agli altri. Pienamente appagato e soddisfatto perché Dio si è servito di lui pienamente. Dio vuole darti una vita dove tu sei pienamente appagato e soddisfatto di quello che fai, perché lo fai in virtù di colui che ti ha affidato quello che ti ha affidato. Come altro puoi distrarti? Quando sei pigro e pauroso. Il servo della parabola era pigro. Infatti il padrone dice fannullone, no? Lo chiama fannullone. Era pigro e pauroso, perché lui stesso dice ho avuto paura. Il fatto è che gli altri due casi hanno fruttato, hanno moltiplicato quello che gli è stato affidato. E io credo che Gesù parli chiaro attraverso questa parabola anche del fatto che non devi aver paura. Qualsiasi cosa investi, che sia investita per il suo regno, porterà frutto. Si moltiplicherà. Non c'è un rischio. Non c'è un pericolo. C'è la necessità di fede. Devi fare quel passo di fede. Devi uscire fuori dalla barca. Ma niente che rischi per l'avanzamento del regno di Dio, niente che rischi per la gloria sua, ti porterà alla rovina. Non essere pauroso, non avere paura, abbi coraggio, abbi fede, questa mattina abbi fede nel pensare a scelte radicali che puoi fare, abbi fede per quelle che, io sto predicando un messaggio che non riguarda delle scelte quotidiane piccole, io sto parlando a persone che sento che devo incoraggiare a fare scelte radicali, rivedere completamente la propria vita. Rivedere grandi cose, non piccole cose, perché hai bisogno di fare grandi cambiamenti per vedere grandi risultati. E il Signore questa mattina ti dice non avere paura, non avere paura, non essere pigro. Quanto la pigrizia ci ferma, ci blocca dal servire il Signore. Perché diciamo, ma se do questo, poi a che ora devo tornare a casa? E poi quanto durerà questo impegno? E poi a che altro devo rinunciare? E poi come faccio per la partita di Champions League che manco? E poi come faccio per questa o quest'altra cosa? La pigrizia è pericolosa. Non essere pigro. Io credo che nessuno qui, alla fine dei propri giorni, vuole sentirsi dire dal proprio Signore, fannullone. E credo che nessuno di noi sarà chiamato fannullone. Perché il fatto stesso che tu sei qui è perché hai determinato che nella tua vita il tuo tempo avrà come primizia Cristo Gesù. Il fatto che sei qui, alcuni facendo sforzi enormi, alcuni spostandosi da decine e decine di chilometri, investendo con i propri soldi, investendo con il proprio tempo, organizzando una settimana intera per essere qui. E questo è l'investimento migliore che tu possa fare. Perché stai dicendo, il mio tempo appartiene al Signore, prima e più di tutto a Lui. Il Signore moltiplicherà questo tempo per il bene della tua vita e della tua famiglia. Quando pensiamo alla parabola dei talenti, questa la possiamo applicare a tutte le sfere della nostra vita. Ma è proprio sul tempo che il Signore ha parlato al mio cuore. Perché in questo anno, questo primo anno da pastore, se c'è una cosa che ho compreso, è che il tempo è davvero poco ed è molto molto prezioso. E mi sono rammaricato, a un certo punto è successo proprio questo, mi sono rammaricato perché dicevo, Signore, non riesco a finire questo libro. Non era la Bibbia, è un libro che mi porta avanti da mesi. Mancano pochi capitoli, dico, Signore, non ce la faccio a finirlo, vorrei tanto finirlo, ma non ho tempo. Non ho tempo, Signore, non ho tempo. Lo vedi? Lo vedi? Non ho tempo. Vengo preso da migliaia di chiamate, ho decine e decine di appuntamenti, ho tante cose da fare. E se c'è una bugia che domina sulle nostre vite, che è così, così cattiva, così violenta, è proprio questa bugia che ci porta a dire che non abbiamo tempo. Tutti noi abbiamo tempo. Abbiamo tempo in abbondanza per fare tutto quello che il Signore ci chiede di fare. E cosa decidi di fare del tuo tempo? E così, da quel giorno che il Signore mi ha parlato, io ho cominciato quelle che sono state 21 giorni di sfida a me stessi. L'ho chiamato 21 Days Challenge, è in inglese, che significa 21 giorni di sfida con me stesso, dove avrei ridotto il tempo di guardare la televisione, di guardare Facebook, la sera sarei andato prima a dormire e ogni mattina mi sarei alzato un'ora prima. Ce la sto facendo. A volte ho dei mancamenti, devo essere sincero. Però ho scoperto in questi che sono stati forse 12 giorni ora, quindi sono oltre la metà del tempo, ce la sto facendo, che è possibile e che ho tempo. Tu hai tanto, tanto tempo, ma proprio tanto. Dillo a te stesso, guardati allo specchio e di io ho tanto tempo, molto, molto tempo. Devo solo decidere come investirlo meglio. E Signore, questa mattina vuole incoraggiarti. Non vuole abbatterti, non vuole portarti a un rammarico. Vuole incoraggiarti. Lui vuole incoraggiare ciascuno di noi. E il suo desiderio per noi è che noi possiamo vivere una vita straordinaria. Lui vuole incoraggiarti e ti dice questa mattina, ce la puoi fare, puoi vivere quella vita straordinaria. Sono io a guidarti. Ce la puoi fare perché hai il dono dello Spirito Santo e Lui ti guiderà passo dopo passo, traguardo dopo traguardo per vivere quel cambiamento di vita e fare di te qualcosa di straordinario. Ce la puoi fare. Tutto quello che devi fare è cominciare a fare delle scelte. Questa parabola è una parabola sulla scelta. Tu sei amministratore di quelli che sono i doni che Dio ti dà. Il tempo, la tua famiglia, tua moglie, tuo marito, le tue capacità, i tuoi soldi, ogni cosa che hai è Dio che te l'ha data. E questa mattina Lui ti dice, scegli. scegli solo di investire in quello che è duraturo e in quello che ha un peso e una ripercussione eterna, perché lì comincerai a vivere veramente. Vogliamo alzarci in piedi. E voglio chiedere a tutti noi e a chiunque questa mattina dice: sì, io voglio vivere una vita straordinaria, io voglio vivere una vita da 100 per 1, io voglio vivere una vita che nella quale non rimango povero, ma nella consapevolezza che sono ricco, vivo da ricco. Voglio chiedere di alzare le tue mani al cielo in questo momento, chiudere i tuoi occhi. Vogliamo rivolgerci al donatore, vogliamo rivolgerci a colui che generosamente ci dona ogni cosa e ci arricchisce per farci vivere una vita straordinaria. Alza le tue mani, anche se questa mattina dici: io ho bisogno di Gesù nella mia vita, forse non l'hai mai ricevuto, come quel verso che ho letto, non l'hai mai ricevuto nel tuo cuore e vuoi questo dono, il dono di grazia. Alza le tue mani al cielo, è un semplice gesto di arresa a Lui. E Gesù, voglio pregarti per tutte queste persone, per tutte queste nostre mani alzate. Siamo qui riconoscendo che Tu sei un Dio generoso, che doni abbondantemente. Siamo qui per dirti grazie per ogni dono che ci dai. Siamo qui anche per dirti che vogliamo vivere una vita spesa bene. Vogliamo andare la sera a letto nella consapevolezza che quello che Tu ci hai affidato in quel giorno è compiuto, è fatto, e possiamo essere appagati del fatto che viviamo delle vite che hanno senso, che hanno significato, che hanno valore e ripercussione eterna. Padre, noi vogliamo essere una luce in questo mondo, noi vogliamo essere una testimonianza per chi c'è attorno, noi vogliamo portare la Tua salvezza a chi è attorno a noi, e vogliamo essere a Tuo servizio completamente. Io ti prego, Padre, che in questo momento Tu possa dare la forza, il coraggio, la fede ad ognuno dei miei fratelli e delle mie sorelle di fare scelte e passi radicali. Padre, questa mattina non scelte e passi piccoli, insignificativi, ma radicali. Delle sfide dove noi sfidiamo noi stessi per il bene dell'Evangelo e per allinearci alla Tua volontà, e ci mettiamo completamente in discussione per il tempo che investiamo, per i soldi, per quello che abbiamo a nostra disposizione e le capacità che hai messo in noi. Noi vogliamo rimettere ogni cosa nelle Tue mani e servirti con queste cose, e vogliamo poter vedere la Tua moltiplicazione in ciascuno di noi e nella Chiesa tutta. Grazie Gesù. A te la gloria e l'onore per la tua parola e per come ci istruisci attraverso di essa per vivere delle vite straordinarie. Grazie. Amen.